Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, il ministro della difesa, La Russa, ha recentemente dichiarato che invierà altri soldati in Afghanistan fino a portarli a 4.000 unità. Tutto questo afflusso di uomini e mezzi in missioni all'estero potrebbe far pensare che non ci siano problemi particolari per le forze armate. Pochi, invece, sono al corrente di qualcosa di cui i politici si guardano accuratamente dal dibattere in pubblico. Chi per indifferenza, chi per precisa scelta di tattica politica. Le forze armate italiane, quelle che gentilmente forniscono gli uomini e i mezzi da mandare in missione, sono pressoché al collasso. Negli ultimi decenni non si è mai data molta importanza a questo settore, ma il livello di risorse destinate al comparto difesa veniva mantenuto a un livello almeno accettabile. Tutto è cambiato durante i governi Berlusconi. Ogni anno di legislatura sono stati puntualmente attuati tagli che hanno finito col portare il bilancio della difesa a livelli insufficienti per garantire l'operatività stessa delle forze armate, ad esclusione solo delle unità mandate in missione, con tanto di appositi stanziamenti extra. Non stiamo parlando di semplici razionalizzazioni e riorganizzazioni. Confrontando i dati sui bilanci del 2009, quello odierno e quello già approvato per il 2011, si configura un vero e proprio massacro del settore, con tagli che portano la spesa complessiva dalla già ridicola cifra dell'1,24% del PIL all'1,09. Non si tratta di semplici riduzioni ragionate di dimensioni e capacità dello strumento militare. Già oggi, cosa mai avvenuta in passato, siamo arrivati al punto che cominciano a mancare le risorse per l'addestramento, la manutenzione dei mezzi e gli approvvigionamenti. Eliminare de facto le forze armate, tranne quel poco che basta a mostrar bandiere in giro per il mondo. Questa è la politica del governo. Bisognerebbe ricordare che le forze armate non stanno a fare la guardia nei confronti del deserto dei Tartari, come ha dichiarato Berlusconi, perché non servono solo a difendere l'attualmente non minacciato territorio italiano, ma servono anche a proteggere il resto della NATO e gli stati dell'Unione Europea. Sergio. Gentile Sergio, lei ha certamente ragione nel considerare la difesa come uno dei settori più colpiti negli ultimi anni dai tagli alla spesa pubblica. E ha altrettanto ragione nel sottolineare come questi tagli non abbiano comunque impedito il rispetto degli impegni internazionali con le missioni all'estero nell'ambito delle iniziative della NATO o dell'ONU. Il punto di fondo è proprio questo. Rispetto a 50 anni fa il mondo è profondamente cambiato e le esigenze di difesa dopo la Seconda Guerra Mondiale erano profondamente diverse da quelle attuali. Proprio per questo, un cambiamento di strategia che comporti una riduzione della spesa non può essere considerato di per sé negativo. La politica di difesa dell'Italia, come lei ricorda, deve essere coordinata in base agli impegni internazionali. E l'Italia ha sempre mantenuto questi impegni. Se lo ha fatto tagliando i costi, tanto meglio. Gli enti culturali sono in deficit? Molti sicuramente sono anche inutili, non lo metto in dubbio, ma moltissimi hanno un ruolo difficilmente comprensibile per chi non li utilizza. Molte fondazioni conservano documenti importantissimi e soprattutto conservano la storia. Sono in perdita? Che importanza ha? Non credo che sia la perdita della scuola archeologica di Atene o dell'Istituto Gramsci a creare il deficit italiano. Tagliamo veramente dove effettivamente i soldi non servono. Festival inutili a partire da quello di Venezia, dove di cultura non se ne fa, ma si fanno solo sfilare attori miliardari per la solita passerella autoreferenziale. Tagliamo i soldi ai quotidiani, molti dei quali inutili e letti da nessuno. Tagliamo i consorzi, senza più utilità. Le feste paesane con migliaia di euro scoppiati nel cielo in fuochi colorati per la gioia di quattro rimbambiti. Lo Stato ha il dovere di conservare la cultura, anche se da ciò perde soldi. Senza parlare poi dell'enorme capitolo del Sud Italia, che ha decisamente rotto con i suoi sprechi e le sue lacrime, le sue lamentele, la sua inefficienza e la sua sornione inettitudine. Roberto. Non sono d'accordo che per ridurre la spesa pubblica si debba tagliare la cultura. La formazione del cittadino è più importante delle auto blu. Inoltre, i parlamentari sono tutti professionisti che prendono 3 o 4 stipendi, quindi non hanno bisogno d'altro. Il fatto è che la politica preferisce mantenere i cittadini e soprattutto i giovani nell'ignoranza, perché meno si ha la capacità di analisi, meno si rompono le scatole ai governanti che possono fare ciò che vogliono. Francesca. La crisi attuale è stata causata unicamente dal soggetto che sempre e più si reclama fuori da tutto e tutti: la finanza. Mentre crollava, gli investitori hanno fatto una cosa senza precedenti: piangere invocando aiuti allo Stato, quello a cui non avevano contribuito. Addirittura dagli stessi quotidiani economici americani, l'aggettivo usato per i salvataggi fu socialismo. Le colpe dei finanzieri le ha pagate anche l'imprenditore. Il soggetto meno responsabile di ciò era il lavoratore dipendente e soprattutto quello statale, cioè quello a cui, dopo mesi di «va tutto bene», Berlusconi vuole ora far pagare il misfatto. Massimo. Perché un parlamentare italiano deve guadagnare molto di più della media dei parlamentari UE? Basterebbe una legge ordinaria per fare in modo che i bilanci delle istituzioni politiche italiane, rapportati alla popolazione, non siano superiori all'analoga media europea. Inoltre, l'emolumento, stipendio e prebende varie di ogni politico italiano, eletto o nominato, dovrebbe essere rapportato all'emolumento medio degli analoghi politici dell'Unione Europea. Non credete che una legge simile possa dare legittimità morale a presidenti attuali e pregressi del Parlamento e altre istituzioni a venire, per ammonire i cittadini e per sentenziare su ciò che è bene fare? Marco, provincia di Milano. Non se ne può più dei parlamentari che ci raccontano, lamentandosi velatamente, che dei 15.000 euro che guadagnano non avanza loro quasi niente, perché fanno attività sul territorio. Forse che un normale impiegato non deve usare parte del suo stipendio per i mezzi di trasporto, per raggiungere il posto di lavoro e pagarsi il pranzo? Ma hanno idea del tenore di vita di un lavoratore con stipendio medio? E delle difficoltà di pagare un affitto, avere un mutuo, comprare una casa? Chiara, Como. Non si possono accusare tutti coloro che si impegnano in politica di essere disonesti. Anzi, sono meritevoli per un'attività che richiede grande entusiasmo e enormi sacrifici e che normalmente viene disprezzata da chi sta alla finestra. Per rubare occorre invece arrivare nella stanza dei bottoni e avere il potere di decidere. Quindi con ruoli di governo e di amministrazione, consulenze, consigli di amministrazione che non sempre sono svolti da politici eletti. Il disastro provocato dai politici corrotti non si esaurisce nelle tangenti, ma nell'aver favorito decisioni che non portano nessuna soluzione ai problemi della collettività. Interventi dai costi spropositati, indagini inutili, lavori incompiuti per carente programmazione. In Italia si ruba legalmente tramite le leggi perché chi sta alla finestra non ha le palle per protestare. Si contestano le intercettazioni, ma chi sceglie la politica dovrebbe per principio sapere di dover vivere in uffici e case di vetro, senza paura di mostrarsi in mutande ai propri elettori. La corruzione è il più abietto dei reati, perché in questo modo il politico tradisce la fiducia che gli è stata data da chi credeva in lui. Abusa di un potere del quale nessun altro cittadino dispone e ha la possibilità di coprire le proprie malefatte usando la disinformazione. Corrado. Universitari, in genere, non dovrebbero essere assunti a tempo indeterminato, ma essere soggetti alla valutazione di utilità, sia dal punto di vista del peso dei loro lavori scientifici o del loro lavoro pratico, sia per la loro capacità didattica. Troppo spesso vedono l'insegnamento solo come una rottura e non come il motivo principale per il quale sono stati messi in determinate posizioni. Laura. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.